Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Pronti, partenza, via. Si va per mari e monti. Partenza, via. Qui siamo tutti pronti. Pronti, siamo tutti pronti. Pronti, siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Avvio in musica oggi per la nostra trasmissione con Pronti Partenza Via di Fabri Fibra, canzone che ci ricorda il pesante immobilismo che il nostro paese ha vissuto per troppi lunghi anni. Pronti Partenza Via come metafora di un'Italia che non evolve e che torna sempre al punto di partenza, arrovellandosi in un devastante circolo vizioso sugli stessi problemi. E uno di questi da risolvere con rapidità è quello della fuga dei talenti. La frase della settimana è copyright di un'altra cantante emergente, Noemi, recentemente autodefinitasi in fuga dall'Italia per cambiare musica. A Londra i musicisti vivono del proprio mestiere, da noi sono quasi tutti disoccupati. L'Italia è in una fase di panico che gela ogni cosa, anche la creatività. La mia fuga è una sfida, è bello sentirsi apprezzata. Qui la meritocrazia paga, da noi senza la spintarella non si va avanti. E pensate un po', la stessa cosa la può affermare pure un giovane che fa un mestiere completamente diverso nel lontano Brasile. In Italia va avanti un buon 80% di persone che sono la rappresentazione di qualcos'altro, di qualcun altro. C'è un 20% di ragazzi bravi che vanno avanti da soli, ma questa percentuale io ho visto che negli anni va sempre di più assottigliandosi. Umberto Morelli, 34 anni, è chirurgo e ricercatore a San Paolo. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Italia al terzo posto in Europa per numero di cittadini al lavoro in un altro paese europeo nel 2012, lo certifica Eurostat, secondo cui ben 676.000 connazionali si trovavano all'estero per motivi di impiego, il 3% della forza lavoro complessiva. In Europa ci superano numericamente solo Romania e Polonia, tedeschi, francesi e britannici non arrivano a 400.000. Specularmente siamo terzi per numero di lavoratori europei nel nostro paese, questa volta alle spalle di Germania e Gran Bretagna. Forte balzo in avanti nelle intenzioni di emigrazione dei giovani italiani all'estero. Secondo l'ultimo sondaggio Demos, ben il 79,4% degli under 25 considera che oggi l'unica speranza di fare carriera sia andare oltre confine, 16 punti in più rispetto a 5 anni fa. L'incremento è pari al 23% nella fascia 25-34 anni. E secondo uno studio del sindacato Medici Italiani sono in aumento i giovani camici bianchi che, una volta conseguita la laurea, decidono di emigrare all'estero per specializzarsi. Tra le mete preferite l'Inghilterra, dove uno specializzando guadagna quasi il doppio di un collega italiano e dove c'è forte carenza di medici. I giovani medici denunciano una marea bianca che lascia l'Italia per trovare migliori condizioni professionali all'estero. La fuga dei cervelli costa al nostro paese grosso modo 5 miliardi, i nostri competitori increduli ringraziano del prezioso regalo. Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi: siamo stati troppo indulgenti con la mediocrità e il nepotismo, lo scivolamento progressivo del nostro paese nelle classifiche mondiali di competitività è anche il frutto di questa eccessiva tolleranza, ha denunciato Squinzi. Effetti collaterali della crescente emigrazione dall'Italia verso la Germania, della quale vi abbiamo parlato la scorsa settimana. Nell'ultimo biennio si è registrato un aumento del 37% degli studenti che all'università hanno scelto il tedesco come seconda lingua, più 80% l'aumento di richieste per le borse di studio per la Germania. Lo afferma il Goethe Institute, che precisa le professioni che vanno per la maggiore sono medici, infermieri, ingegneri ed economisti. E la Germania apprezza l'immigrazione di capitale umano dall'estero, tra cui 42.000 italiani. Non si tratta solo del numero, la nostra fortuna riguarda soprattutto la nuova qualità dell'immigrazione. Così il ministro del lavoro Ursula von der Leyen. Un'ondata, dice il ministro, che aiuta la Germania a diventare più giovane, creativa e internazionale. Dove andare a studiare se si scelgono invece gli Stati Uniti? Secondo la classifica US News 2014 Best Graduate Schools, Harvard si conferma la migliore, mentre Yale è in testa per chi vuole studiare legge. Per chi vuole sfondare nel campo del business, gli atenei su cui puntare si confermano Harvard e Stanford. I futuri avvocati e giudici devono optare per Yale. Intanto l'Italia resta poco attrattiva per gli studenti stranieri. Nella penisola sono 110.000 quelli iscritti alle nostre università, ma la loro incidenza sulla popolazione accademica, 3,8%, rimane ancora piuttosto limitata rispetto a quella di altri paesi europei, 5 punti sotto la media. In Italia si conta un solo cittadino straniero ogni 22 immatricolati e uno ogni 34 laureati, lo denuncia lo European Migration Network Italia. Solo il 40% di questi studenti intende fermarsi qui una volta conclusi gli studi. I think this is absolutely the highest priority. La disoccupazione dei giovani in Europa è assolutamente inaccettabile. La priorità principale deve essere combattere la disoccupazione giovanile. Così il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz a Radio 24. Il premier Enrico Letta preme intanto per un piano specifico di contrasto al vertice di fine giugno. In Italia quasi un giovane su quattro non lavora, non studia e non segue alcuna formazione professionale, una quota nettamente superiore alla media dei paesi avanzati. La penisola è tornata indietro di 10 anni secondo le tabelle dell'ILO, l'ente ONU responsabile per il lavoro. La situazione peggiore è al sud, ricorda la Svimez. L'anno scorso solo poco più di un giovane su 3 under 34 ha lavorato nel mezzogiorno e poco più di una giovane donna su 5. Si inaugura oggi il MIM, Museo Interattivo delle Migrazioni di Belluno. Il MIM è uno spazio espositivo che tocca 3 grandi aree: l'emigrazione storica dall'Italia, la nuova emigrazione e l'immigrazione in Italia. Resterà aperta fino al 26 maggio alla Triennale di Milano la Common Design Exhibition, l'esposizione dedicata ai talenti emergenti del design italiani ed europei. La storia di questa settimana di giovani talenti ci porta fino in Brasile, paese emergente, paese che sta esercitando un'attrazione sempre maggiore verso i nostri giovani professionisti alla ricerca di opportunità stimolanti tra San Paolo, Rio de Janeiro e le altre città carioca. Vi approdano anche giovani medici e chirurghi, come dimostra la storia che vi raccontiamo oggi. Nome: Umberto. Cognome: Morelli. Età: 34 anni. Città di origine: Amantea. Studi: laurea in medicina e chirurgia Università Cattolica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: per la prima volta nel 2007. Per andare dove? In Francia. Perché? Crescita professionale e allargamento degli orizzonti. Quale lavoro svolgi attualmente? Ricercatore, dottorando in chirurgia all'Università Statale di Campinas. Dove? Tra Campinas e San Paolo del Brasile. Tornerai? Chi lo sa. Girl from Ipanema ci trascina con tanta atmosfera nel mondo carioca. Sono un giovane chirurgo che si è formato tra Italia, Francia, Inghilterra e Brasile. La carriera e la vita mi hanno portato a lavorare in molti paesi, accumulando sia esperienza sia una visione globale di quella che è la chirurgia nel mondo. Cosa mi ha spinto a fuggire? Il sistema italiano ingessato, insieme alla mancanza di opportunità per quelli che come me si sono fatti da soli e che sono alla costante ricerca di opportunità per svolgere il proprio lavoro in modo onesto ed efficace. Umberto, la tua autopresentazione a giovani talenti @radio24.it è un manifesto in miniatura dei motivi che spingono decine di migliaia di giovani professionisti a lasciare la penisola. Sarò schietto: la ripartenza di questo paese, se vorremmo realmente salvarlo dal declino, dovrà passare dagli outsider, giovani liberi, dal grande bagaglio internazionale, costruitisi da soli e senza compromessi, pronti a tornare per ricostruire? Sicuramente la nostra classe dirigente in Italia, una buona parte della nostra classe dirigente è in giro per il mondo, quindi l'Italia può ripartire, ha tutte le potenzialità per ripartire solo se sa richiamare questa buona fetta di professionisti e di persone oneste che non sono volute scendere un po' ai compromessi. Sicuramente questi ragazzi offrono una possibilità, un motore per la ripartenza. L'emigrazione è un po' il tratto costante della tua storia. Sei emigrato dalla tua Calabria per studiare medicina a Roma. Quale ricordo hai di quegli anni di avvio alla professione medica? Gli anni romani li ricordo come bellissimi, molto studio, durissimi, in un ambiente molto competitivo come la Cattolica, che in quegli anni lì era un'eccellenza. La formazione nel nostro paese è molto teorica, denunci. Negli altri paesi si dà maggiore valore al saper fare rispetto al sapere fine a se stesso. Il paradosso è che i medici italiani sanno magari curare benissimo un tumore, ma vanno in crisi di fronte a un raffreddore. Quale voto daresti allora tu all'università italiana se toccasse a te metterti in cattedra? 7. C'è ancora molto da fare dal punto di vista della formazione pratica. Bisogna ancora in Italia unire la pratica alla teoria. La teoria è troppa, bisogna anche un po' metterla in pratica, questa teoria, particolarmente nelle professioni come quella del medico. Scegli la specializzazione in chirurgia, cominciando i primi tirocini nei diversi reparti ospedalieri. A 24 anni ti laurei, 110 lode in medicina, tesi sperimentale in chirurgia generale. Per paradosso però, nonostante il voto e nonostante le qualità dimostrate, il difficile arriva proprio ora. Ci vuoi raccontare il tuo personale pellegrinaggio per l'Italia alla ricerca di un posto da specializzando? Finita la laurea, ero già interno in chirurgia generale alla Cattolica, c'erano molti candidati per pochi posti, in base a alcune regole un po' arbitrarie, nonostante aver fatto un esame molto buono, per motivi misteriosi non entrai proprio a casa mia e cominciai a fare concorsi per tutta Italia. Ne fece 13. 13. Però alla fine ce l'hai fatta, perché hai avuto alla fine di questo percorso l'opportunità di entrare in una scuola di specializzazione. Dove? Perugia, Università di Perugia. E vogliamo anche far capire quanto siano stati duri in termini di lavoro i 6 anni di scuola di specializzazione. Tremendi, perché ho cominciato essendo interno lì, quindi come assistente volontario. Quindi lavorare quasi un anno a gratis, è stato tremendo, molto duro, Io venivo da un'altra scuola chirurgica, un'altra università, quindi diciamo che non ero proprio tra quelli un po' più favoriti. I ragazzi possiamo da capirlo. Casa ovviamente godevano di un po' più di privilegi, diciamo. La tua ancora di salvezza finiscono con l'essere in quegli anni tirocini all'estero, quello più significativo nel 2007 a Strasburgo. L'insegnamento italiano non mi bastava, c'erano interventi che la mia scuola non praticava e io volevo migliorare il mio livello. Così decidi di andare un semestre in Alsazia. Vogliamo dire con quale straordinaria semplicità hai ottenuto lo stage? Semplicemente grazie a un medico italiano, il dottor Alexis Mongelli, mi diede le dritte perché lui già era stato in Francia. Io semplicemente mandai una lettera di motivazione e il mio curriculum al direttore della scuola, tutto via email. Dopo 3 giorni mi mandò un'email dicendo che mi accettava per uno stage, offrendomi tutte le training, le possibilità che hanno offerto gli specializzanti francesi. Fu così, semplice. In Francia ti si apre anche un mondo a livello professionale, tra l'altro incroci anche il conduttore di questa trasmissione che proprio a Strasburgo si trovava 6 anni fa, e a te l'Italia però comincia a mostrare tutti i suoi limiti non appena vi rimetti i piedi nell'autunno 2007. A divenire insopportabile è quella che definisci la gerarchia italica. Sarò diretto, è questo il vero cancro da estirpare? Un giovane che arriva da un'esperienza all'estero con delle capacità in più, fui messo un po' all'angolo, diciamo, non direttamente ma indirettamente, perché lì costituivo un po' un pericolo, mettendo in ombra alcuni che dovevano necessariamente brillare. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. La nuova valvola di sfogo arriva a questo punto dal Brasile, un altro stage che ti porta a Unicamp a Campinas, vicino a Sao Paulo, seconda università migliore del paese. Lì puoi veramente operare e fare esperienze. Intanto ti specializzi in Italia chiudendo un lungo iter di studi. Tante pacche sulle spalle, tanti bravissimo in questa penisola dove a parole sono tutti buoni e riconoscenti. Intanto però chi è l'unico che ti offre un master in chirurgia aprendoti le porte della carriera accademica? Chiesi uno stage qui a Campinas, in Brasile, in chirurgia colorettale. Il professor Coy mi accettò e sinceramente qui cominciai veramente a mettere la mano in pasta, a operare veramente la chirurgia maggiore, diciamo, prima di avere 30 anni in Italia è praticamente impossibile. Resti in Brasile fino al giugno 2010 prima di fare ritorno in Europa, vi rimarrai un paio d'anni, prima alla Royal London Hospital di Londra con una fellowship in chirurgia colorettale, poi di nuovo in Alsazia, ma a Colmar, dove vieni assunto l'ospedale civile come chef de clinique. Una carriera tutta basata sul merito, costruita su un lavoro durissimo senza appoggio o padrini particolari. Per nessuno di questi lavori sono dovuto scendere a compromessi, rivendichi con orgoglio. È per questo che nel tuo ritorno in Europa è mancata l'Italia. In Italia diciamo che le regole sono un po' diverse, c'è un sistema molto più burocratico, ingessato, e ovviamente bisogna conoscere qualcuno che ti apra le porte. L'ultima per ora tappa ti ha riportato nuovamente in Brasile lo scorso autunno a causa delle leggi francesi sull'immigrazione un po' assurde. Tua moglie brasiliana anestesista era rimasta senza lavoro, per cui avete deciso di tornare a Sao Paulo. Brasile come paese delle opportunità, anche se sudate a caro prezzo. La tua storia ne è un esempio. Attualmente sei impegnato professionalmente su ben 3 fronti. Quali? Sto facendo il mio dottorato di ricerca a Campinas. Poi proprio guarda, l'ultima intervista di lavoro l'ho fatta giovedì scorso, dove mi hanno assunto con un contratto. Sono su strutture pubbliche gestite qui dalla Segreteria di Salute dello Stato di San Paolo. Più sono impegnato su altri progetti, sono research consultant per un istituto di ricerca qui a San Paolo. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? L'Italia dall'estero in questo momento fa tanta paura. Noi espatriati discutiamo, a volte mi incontro con alcuni italiani. Molti avrebbero voglia di tornare, ma pochi hanno il coraggio. La situazione economica, la situazione politica appaiono disastrose dal nostro punto di vista. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Umberto Morelli, 34enne chirurgo al lavoro in Brasile. Umberto vi approda spinto dalla passione per la medicina. Alle spalle una laurea in Italia e una specializzazione nella penisola disseminata di ostacoli ma anche di fughe all'estero. Prima a Strasburgo, poi in Brasile, dove trascorre l'ultimo anno di specializzazione. Proprio in Brasile Umberto ottiene l'opportunità di un master in chirurgia prima di tornare in Europa, trasferendosi per un anno a Londra e altri 12 mesi successivamente a Colmar in Francia. Ultima tappa ancora il Brasile, dove è ricercatore universitario ma lavora pure su altri progetti. Per nessuno dei lavori all'estero sono dovuto scendere a compromessi, sono sempre stato assunto sulla base di merito e capacità. Questo mi ha allontanato dal sistema lavorativo italiano, denuncia Umberto. Ci raggiunge ora in linea Carlo Eugenio Vitelli, primario di chirurgia generale all'ospedale San Giovanni di Roma. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Professor Vitali, la storia di Umberto io temo lei l'abbia già ascoltata decine e decine di volte. Quanti giovani chirurghi italiani bravi e competenti, ma proprio per questo esiliati dal loro paese, ha incontrato o incontra tuttora in giro per il mondo? A chi danno fastidio? Danno fastidio a chi si è sudato la posizione facendo tutto tranne che il chirurgo qua in Italia. Amara constatazione. Una breve presentazione anche per lei. Primario di chirurgia generale all'ospedale San Giovanni di Roma, l'abbiamo detto. Negli anni 80 ha compiuto uno stage formativo in chirurgia toracica a Parigi, poi si è trasferito a New York specializzandosi in chirurgia generale alla State University e in chirurgia oncologica al Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Soprattutto mi ha molto colpito un suo recente articolo sull'Huffington Post Italia. Il finale merita una citazione per intero. Volete sapere che consiglio ho dato al figlio aspirante chirurgo di un mio amico? Parti non appena possibile e poi, se puoi, ritorna tra un po'. Ci sarà bisogno di chirurghi capaci e non ci saranno. Vitelli, come sistema paese stiamo finendo nella serie B anche della chirurgia o rischiamo di finirci? Non credo che rischiamo di finirci. Il sistema sanitario sta traballando un pochettino. Il problema è un altro, è che adesso tutti i posti sono bloccati dalla pletora di medici che negli anni, fine anni 70, anni 80, inizio anni 90, è uscito dall'università. Per cui c'è una quantità enorme di gente sui 55-60 anni e non c'è un ricambio generazionale. Se tu vai in altri paesi, trovi gli ospedali retti da persone giovani, trovi pochi vecchi. Qui invece sono tutti vecchi. Tra 15 anni ci sarà bisogno. Finiremo come in Inghilterra, che importano medici indiani o pakistani piuttosto che italiani. Un punto fondamentale che ha toccato Umberto e sul quale anche lei mi sembra sensibile è quello della pratica ospedaliera. Il suo esempio è illuminante. Scriveva lei nell'articolo: pensate se il signor Marchionne assumesse in Fiat con contratto di apprendistato per 6 anni a 1750 euro al mese giovani apprendisti e poi alla fine del periodo, dopo averli insegnato poco o nulla, li mandasse a cercarsi un lavoro. Il sistema esploderebbe, scrive. L'università italiana fa esattamente così, parcheggia 6 anni dei giovani, dandogli un contentino di neppure 2000 euro, facendoli girare tra reparti di chirurgia universitari e ospedalieri, poi dopo aver dato a tutti un diploma li sbatte in strada con tante felicitazioni. Ma che razza di sistema formativo è, professore? Difatti, mentre Umberto dava 7 all'università, io darei molto di meno per quel che riguarda il sistema formativo post laurea. Da noi transitano spesso degli specializzandi dell'Università di Roma, vedo che il loro curriculum formativo è assolutamente inadeguato. Quando hanno il titolo di specialisti in chirurgia generale, hanno fatto sì e no 15 interventi e sono tutti piccoli interventi. A New York, quando io mi sono specializzato, era obbligatorio farne almeno 1000, ma 1000 in cui c'entravano interventi di grossa chirurgia come primo operatore. Umberto, hai una domanda per il professor Vitelli? Lei assumerebbe uno come me? Domanda diretta, sì, sentiamo. Sì, ma è direttissimo. Guarda, io l'ho fatto 15 anni fa. Io chiesi su a New York se c'era qualcuno e mi venne presentato un mio collega che aveva fatto praticamente la mia stessa cosa e l'ho assunto con un contratto come si faceva su in America e l'ho fatto per un'altra persona pure. Quindi la risposta è sì? Sì. Poi c'è un altro paradosso tutto italiano, quello di chi certifica la specializzazione medica. In Italia sono le stesse università a dare l'imprimatur allo specializzando dopo averlo esse stesse formato, un vero e proprio cortocircuito. Come funziona all'estero, ma soprattutto potremmo importare quelle pratiche, professore? Sì, ma qui andiamo a toccare le leve del potere. Delle rendite di posizione, immagino. Esatto. Allora, questo è quello che si chiama interesse. Noi in Italia siamo... Intacchiamole un po'. Ma è chiaro che se sono io che devo certificare l'avvenuta specializzazione, sono io che ti dà la formazione, è chiaro che io ho tutto l'interesse a certificare tutti quanti, no? Qui le scuole di specializzazione sono tutte uguali. Grazie al professore Carlo Eugenio Vitelli, soprattutto per la schiettezza con cui ha risposto alle nostre domande. E domanda di rito per Umberto Morelli. Tempo fa ci scrivevi, Umberto, la mia non è una chiamata alla fuga. Io mi limito solo a indicare ai giovani il pannello exit di uscita dall'Italia affinché sia ben visibile all'interno delle opzioni a disposizione di ciascun mio coetaneo. Quel pannello di uscita di emergenza è tuttora lì che lampeggia, Umberto? Adesso diciamo che in questa situazione in Italia è più che lampeggiante, è grande quanto una casa. Solo invito i miei coetanei a pensare al mercato del lavoro come un mercato, uno, europeo, due, mondiale. Settima e penultima puntata dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino alla prossima settimana sostituendo la rubrica Jobs Abroad. Premieremo 6 ascoltatori tra i 18 e i 30 anni che invieranno da adesso fino a domani a mezzanotte una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta da sottoporre agli europarlamentari. In premio per le migliori 6 proposte un viaggio a Strasburgo all'inizio di luglio. Attenzione, la proposta, anche se inviata via email, dovrà essere contenuta in 140 caratteri al massimo. Il tema della settimana è: inviateci una proposta per un nuovo programma europeo di studio a favore dei giovani. Ripeto, un programma europeo di studio. La casella email è concorseuropa@radio24.it. Ricordate di indicare data di nascita, indirizzo e numero di telefono. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. La prossima settimana, puntata conclusiva del concorso. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi torniamo a parlare dei gruppi di giovani professionisti italiani che dall'estero provano a dire la loro nel bel paese, spingendo l'acceleratore sulla riconnessione tra la penisola e l'immenso bacino dei suoi espatriati. Ci spostiamo a Bruxelles, capitale d'Europa. Lì è attiva un'associazione che prova a elaborare politiche concrete per i giovani italiani. Daniel Puglisi, cofondatore di Giovani Italiani a Bruxelles. Siamo un gruppo di ragazzi, un gruppo di amici, studenti, precari, professionisti a Bruxelles, che vogliamo puntare i riflettori sulla mancanza di politiche giovanili in Italia. Quanti sono a Bruxelles? Siete tanti? Siamo tanti, veramente. Io ricevo curriculum sempre di più di giovani italiani ogni settimana. Stiamo vedendo una emigrazione nuova di giovani in ricerca di più opportunità all'estero, e molto spesso sono giovani laureati e giovani molto qualificati. È uno spreco di capitale umano questo per l'Italia? Certo, una perdita, perché non è importanza se sono giovani qualificati o se sono giovani anche che non sono andati all'università. Stiamo parlando di gente con grandissima volontà di lavorare, con volontà di portarsi avanti, che stanno andando fuori. Quali sono le proposte in breve che voi fate per ovviare a questo dramma? La prima proposta è un investimento nell'istruzione e nella ricerca. 2. Formazione e ingresso nel mondo del lavoro. 3. Incentivi all'assunzione dei giovani. 4. Accesso agevolato al credito. 5. Il diritto di voto a favore dei giovani. Finora siete stati dimenticati all'estero, ora volete tornare a contare per il bene del paese? Io personalmente vorrei vivere in Italia, però se non tolgono gli ostacoli, se non tolgono la vecchia Italia, non posso tornare. Per maggiori informazioni potete cliccare su giovanibruxelles.wordpress.com. Un motivo per restare o tornare. Un assegno di sopravvivenza pari a 50 euro mensili a favore di giovani disoccupati under 30 per 3 anni consecutivi a partire da luglio. È la ricetta del comune di Polistena in Calabria per aiutare le famiglie che si trovano in situazioni di semipovertà a uscire dalla crisi. I beneficiari saranno giovani disoccupati che vivono all'interno di famiglie in cui tutti i componenti sono disoccupati. L'amministrazione comunale afferma: la mancanza di lavoro, di opportunità, di spazi solidali costituisce il principale problema dei giovani. Molti ragazzi sono costretti a espatriare, se va bene o peggio, a imboccare percorsi devianti. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti, all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Fino a giugno è aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è Sì al Talento, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di maggio è: quali devono essere le priorità del nuovo governo e del Presidente della Repubblica sul tema della fuga dei talenti e della circolazione dei talenti? Scrivete la vostra personale lettera aperta alle istituzioni. Pubblicheremo le migliori sul blog di Giovani Talenti. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24, per una puntata speciale dal cuore dell'Europa. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.